La scintilla in realtà è una diagnosi di una depressione moderatamente grave che mi colpisce a luglio 2024. Non mi vergogno a dirlo perché succede. Chi mi ha preso in cura quel giorno mi ha detto: attaccati alla vita, fai qualcosa che ti faccia sentire vivo. Ho sempre fatto il DJ, però il mio sogno era quello di suonare la mia musica. Avevo delle idee in testa e da lì è stato un percorso difficile perché ho dovuto imparare tutto, ma è stato come scoperchiare un vaso di Pandora. Il cerchio nero è la depressione ed è un cerchio che tende a avvolgerti e a schiacciarti, a comprimere sempre di più, sempre di più, sempre di più. E diventa poi il tuo mondo, perché vedi tutto nero ed è un nero sempre più intenso e che ti schiaccia. E io ho provato a descrivere questo mondo. Adesso lo combatto il cerchio, però ci vivo dentro. Infatti il disco ha un sound abbastanza cupo. Ti volevo chiedere quali sono state le tue fonti di ispirazione musicale, quali artisti ti hanno influenzato di più nella scrittura del disco. In principio va detto che io per oltre 10 anni mi sono occupato di critica musicale scrivendo sulle webzine più note del settore. Ho avuto la fortuna di fare all'incirca 100 interviste, ma soprattutto di ascoltare tanta musica, anche come collezionista, ovviamente. Questo è stato il punto di partenza. Il disco è fatto di tanti sample, no? È la base della mia musica, quindi i campioni. Sapevo innanzitutto cosa non volevo fare. Non volevo fare musica techno e non volevo fare musica con la cassa dritta. La mia idea era quella di tornare a un periodo di grande serenità della mia vita, che è quello della metà degli anni 90. Un periodo che io ho trascorso frequentando tanti centri sociali che erano, prima di Genova, lo sappiamo, erano un centro di aggregazione importante, no? Dove si ascoltava musica, dove si faceva musica, dove si partorivano idee, dove ho ascoltato tutti i miei artisti, che sono ancora i miei artisti preferiti, per cui sono andato a prendere quelle reference. Cosa si ascoltava negli anni 90, almeno a Leoncavallo, che era il centro sociale che frequentavo io? C'erano tanti concerti, poi c'era una saletta che si chiama Downtown, che è la saletta che non devono assolutamente abbattere perché contiene delle testimonianze, dei graffiti importantissimi della cultura suburbana di Milano. Girava musica elettronica, girava musica jungle, girava il trip hop, girava musica da un tempo, e quelle sono state le mie reference, per cui ti direi Kruder and Hofmeister, i Massive Attack sicuramente, qualcuno dirà i Portishead, sì, ma più i Massive Attack, e poi tutto da un tempo, quindi Thievery Corporation, i Thunderbolt, che in Italia conoscono in pochi ma che hanno dato tantissimo alla musica da un tempo, e poi tutta la jungle inglese, che è proprio il genere di aggregazione perché mischia un sacco di subculture provenienti da paesi diversi e le mette tutte insieme. Quello per me è stata una grossa fonte di ispirazione. Tra l'altro la jungle non è neanche facile da fare, da produrre. È stata una sfida ed è stato, secondo me, è la bandiera portante di questo disco, anche se poi non è presente in tutte le canzoni, perché è simbolo di multiculturalità. Ecco, io la vedo così. Abbiamo detto che il disco esce il 19 dicembre e lo presenterai qui a Bologna il 18, il giorno prima, allo Sghetto Club, in apertura di Bebo Guidetti. Ti volevo chiedere come lo conosci, com'è nata questa collaborazione. Allora, con Bebo ci conosciamo dall'uscita di Turisti della Democrazia, che secondo me è un disco importante per l'indie pop italiano, sia per come suona, anche se non suona assolutamente come la musica che faccio, sia per quello che dice, anche se lo dice in una maniera magari scanzonata, ma è importante. È il classico rapporto per cui magari da fan diventi amico, diventano amicizie importanti, ed è un'amicizia che si è coltivata durante gli anni, per cui quando poi gli ho detto: sai Bebo, ho fatto un disco, gliel'ho mandato, lui è stato molto sincero e anche molto costruttivo nelle critiche, perché non è un disco perfetto, è ovvio che gli manca la malizia del produttore, però mi ha detto subito: vieni, io il 18 faccio una data a Bologna, aprila e suona. E per me è stato sognare ad occhi aperti, sono contento, non vedo l'ora. È un'amicizia, è un favore che mi fa Bebo e per me è un sogno. Inoltre ti chiedo, per la data a Milano, l'eventuale ricavato so che sarà devoluto al Mufta Studio per la causa palestinese, giusto? Sì, sì, sì. Innanzitutto va detto una cosa. Io sul palco non ho scenografia particolare, non ho niente se non la bandiera palestinese. E questo deve essere chiaro a tutti. Anche all'interno del CD è scritto molto grosso Free Palestine. Qualcuno potrebbe dire che faccio Palestine washing. Non è vero. Io seguo la causa palestinese ormai da tanti anni. Dal 2010, ma anche prima. È una causa che mi ha sempre toccato perché c'è qualcuno che ruba la terra e questo non va bene. Per cui nel mio piccolo, oltre a partecipare a molti dei cortei che ci sono stati a Milano, sentivo di voler far qualcosa in più. Musta Studio è uno studio fondato da un ragazzo palestinese che produce delle grafiche, potete andarlo a seguire su Instagram e potete comprare le loro magliette e le loro felpe. Tutti i soldi vanno per aiutare la famiglia di questo ragazzo palestinese. Lui è riuscito a uscire da Gaza nel 2023 ed è in Germania e studia. Le sorelle e tutti i parenti, se non sono a Gaza, sono in Cisgiordania, comunque non sono in una bella situazione e vanno aiutati. Nel mio piccolo ho deciso di devolvere l'intero ricavato, che non è una grande cifra, avrebbero bisogno di molto di più, della serata di Milano, che è la data zero, che è il 12 dicembre, tra l'altro è una data importante perché è l'anniversario di Piazza Fontana, insomma, di devolvere il ricavato di quella serata, quello che riterranno giusto pagarmi, a Musta Studio, in modo che possano aiutare una causa che sento molto a cuore. È infatti una bellissima iniziativa e io ti ringrazio, Milano Paranoia, per essere stato con noi. Ti auguro una buona giornata, un in bocca al lupo per il tuo progetto e non vediamo l'ora di vederti qui nella nostra città, Bologna. Ci vediamo il 18, è stato un piacere, grazie a tutti e buon proseguimento. Buona giornata, ciao. Ciao, ciao.